Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, siamo in linea su Radio Live Session. Questa sera iniziamo così col programma elettronico affidato a cura di DJ Vulpis. Un buon ascolto da Radio Live Session. Down here.

Oh, allora buonasera a tutti quanti gli ascoltatori. Ricordiamo che siete connessi su Radio Live Session. Questo è il programma elettronico condotto da DJ Wulpit. Buon ascolto e sempre su Radio Live Session. Out. Bene, ricordiamo che siete sempre connessi su Radio Live Session. L'appuntamento è per il 23 maggio alla discoteca Ragan. Radio Live Session e Revolution in Tour presentano Killer Faber, Tony Anatone, Zenith, Principe Bismarck e il Paris Galisca DJ Vulpix. Sempre su Radio Live Session. Down, girl. Yeah. Thank you. quindi siamo in chiusura qua su Radio Live Station. Questo era il programma elettronico condotto da DJ Vulpix. Radio Live Station vi saluta e vi dà l'appuntamento a lunedì alle ore 21 dalle ore 22 con Rock, dalle ore 22 alle ore 23 col programma Italian Revival e dalle ore 23 alle ore 24 con BPM con Franceschina da Radio Veronica. Lose my senses with the sound. Head is spinning all around. E quindi l'ultimo disco dedicato a DJ Vulpix, a tutti quanti voi, e ancora tanti saluti da Radio Live Session. I am the cleaning instructor. Use my senses.